Santiago José, Radio 5, Radio 4. Sì, sì, Daniele, già ti sentiamo, non so se ti sento l'Ottonino e Emanuele. Santiago sì, sente, però già, in mezzo a quel rebe, a volte capisco la radio, a volte no. Ma io già lo sento sempre, Daniele. Ciao, comunque ben sentito, vai. Io fra un po' chiudo perché devo portare il cane, avanti tu. Niente, io sto cercando la foto e non lo trovo, ne ho un paio di foto, roba di 5.000 ne ho foto, fate conto, sto sbagliando piano piano a trovare Emanuele, ma c'è la ciappa che mi dite la maghetta, te la mando già. Oppure devi andare a pescare tu. Bisogna rinnovare il foglio, il saluto l'anno scorso è mio. E andiamo. Per me. Dunque, oggi è mercoledì, giovedì, venerdì mattina, ti va bene? Oggi giovedì. Oggi è mercoledì. Mercoledì. Sì, può anche andare bene. Però non presto. Perché prima devo portare il cane. Andiamo verso, partiamo verso le 7, va bene. 7 di sera. Di mattina. Avanti. Faccio 7 di sera. Sai che stanno parlando? Prova. Adesso sì, 8 con picchia a 9. Adesso lo sento bene. Ma figurati, dai, è sempre un piacere ascoltarti, dai. Santiago 8-9, dai, stai arrivando. Dall'8 vai a picchi su 9. Adesso stai usando il capo. Oh, Daniele, e avevi coppi? Ma vai da Roma, Daniele, con tutti a Roma riesci a disegnare. Niente, la voce corre in mezzo a lui. Segnale ultimo, 7-8 però. Radio Pio Pio. Gianni Saturo, vai Saturo tu. Ma perché siamo vicini. Se io non voglio uscire Saturo, non so come fare. Ammazza. Ho toccato il batto dell'apparecchio, guarda adesso come sono, Tony. Adesso non sei Saturo. Vedi, se ho basso il batto dell'apparecchio non esco Saturo. Perché siamo vicini. Infatti ci è passato anche il segnale. Come vai di andare? Così vada va. Quanto sono di segnali così? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso è tutto normale. Era per provare. Accendere ogni tanto. Sì, ogni tanto c'è il QRM, lo sento anch'io. E purtroppo in questo periodo un po' tutto. Se vuoi restare non c'è problema. Non me mi sentite, capo. Quello mi. Gianni, ti ho mandato il video di Emanuele. Poi vado a guardarlo perché ce l'ho in carica, tu dice in cucina sta nel fuoco. Dopo vado e lo guardo. Quindi vai Antonio, se che rende, vai Antonio. Pompando si sta. Cosa c'è? Dimmi tutto, cosa c'è? Non te lo dico. Perché forte sto arrivando? Quanti giorni sto arrivando? Già va bene, già va bene. Accendiamo i motori, KK. Però Gianni mi arriva più forte di te, Antonio. Cosa? Che Gianni mi arriva più forte di te? Gianni, forse sarà di fronte. Ma lascia scappare. Staccato. Che Antonio era attaccato, per quello arrivava più forte. E allora? Arriva se può sì. Antonio doveva fare il pompiere. Gabba, poche fiamme, poche fiamme. Ora! Aspetta che tariamo. Ecco qua, così va bene. Dai, io mi sforzo. Rimango allo sconto, dai. Ci sentiamo. Ciao Emanuele, ciao Antonio. E ciao Daniele Giuffrisse. Non ho capito da dove siamo andato, comunque. Ok, ci sentiamo. Ciao. Gabba. Dattici sta modulando, dattici. Guarda a vedere Daniele, ancora più forte sono. Tanta roba di coi piso pubblicendi, no? Perché conviene andare tutti in un canale, che già noi non ci disturbiamo uno con l'altro. Gabba, ma la 48 è assurdo, comunque. Ho fatto una prova ma è assurdo già. Con quello là non era così. Che assurdo. No, io non ti cagare nessuno, nessuno proprio, dico la verità, con il Galassi non senta nessuno. Gappa, gappa, vai. Ora, dai, lo devo dire là perché non ci butti niente, insomma, non siamo a tre, va. Beh, raga, io me ne sto andando, vai, vado a portare giù il cane. Sentiamo, buona serata a tutti, tante cosce belle. Ciao, ciao, ciao, ciao, ci risentiamo, K. Con questo qua fa molto meglio, va col compra. K, non li sì. La risento ma molto, molto, molto di meno, però, molto di meno. Usa lo squelch, scusa, abbassa lo squelch. Se abbasso troppo non sento a cosa. A chi? Daniele. Non sento Daniele, no. Con questo un po' Daniele lo sento, con quello là zero. Proprio pure a Tonino entrava forte col 48. Perché 48 prende un bel splatter. Quello che avevo io non ne bigliava, perché c'era stata fatta una modifica, non ne bigliava. Però l'ho dato lo stesso perché non me ne facevo più nulla, era di quelli modificati. L'ho venduto. Sì, sì, sì, lo so. Gappa, lo so. Ma c'era lavoro dentro, allucinati, hanno cambiato cavi, tutto quanto, hanno messo cavi grossi. E non l'hanno fatto perché quando eri un cavo vicino all'altro, praticamente per non stare a splatterare il canale, praticamente c'era questo interruttore, te lo abbassavi, tipo un filtro. Quelli vecchi prendono colpi più di tutti, quelli un po' nuovi un po' di meno, la tecnologia è diversa. Ma quelli nuovi non servono a nulla? No, non è che non servono a niente, ma già vanno. Sì, vale, si bloccano, guarda, ne ho comprato uno io, l'ho acceso due o tre volte, vado a accenderlo e è partito completamente, non accendeva più. Siccome quando mi esce una cuzzata giubilante l'ho fatto tutta pezzare e ti preso pubblico da qui. Addirittura si è rovinato. Sì, completamente, non accendeva più. Il giorno prima stavo modulando, il giorno dopo l'ho spento che stavo modulando, il giorno dopo l'acceso non accendeva più, controllato fusibili, tutto quanto, niente da fare, tutto a posto. Sì, ma quella è una scarogna. È dritto fra il fiato di bruciato. Quella è proprio una scarogna già, eh. Io c'avevo il Goldmi, c'avevo quello modificato dalla casa. Praticamente c'avevo le stesse cose che mettono i camionisti nei loro Alan 48, però fatto dalla casa, fatto dalla fabbrica. Beh, ma che si è fatto male, ci si scusa, perché non può funzionare così. Fatto male. Diciamo che questa qui era una cosa proprio partita dalla fabbrica, non è che l'hanno fatto tecnici così, no. La fabbrica proprio l'ha fatto, aveva proprio il prototipo per fare questi apparecchi qua. Sì, ma sono fatti male, sono proprio, perché ce l'hanno altri, così non si è mai rotto l'apparecchio in sé. Uli chissà cosa hai combinato. Comunque mi hanno detto tutti che erano difettosi, che praticamente succedeva tutti quanti così, che si bruciava. Pensa tu cosa capolo è. Pensa tu. Quando io l'ho chiamato dove avevo comprato, era in garanzia, mi ha detto di spedirglielo, che me lo faceva controllare, e ha detto no, ma io lo voglio nuovo. Se non ce l'ho manco una settimana, cazzo, nuovo nuovo era. Due o tre volte me l'avevo usato, la terza volta mi è partito. E infatti mi ho fatto la croce, basta. Alla parata te lo voglio più vedere. Sì, è uscito male, è quello. Sono loro che ti hanno spedito male. Poi ha cominciato a dire, ma non è che gli ha avvertito i fili, ma guarda che era attaccata la stazione. Funzionava il giorno prima, il giorno dopo non funzionava più, che i fili ho avvertito, si erano già attaccati i fili. Per carità, e remmo quei gazzate. Fuglia. Chi su coso è atteso? Bene va, fa la satura. No. E quello li sto usando. Il bucciato 31. Hanno detto stasera, il mio bucciato 31. Quello c'ha una valvola, c'ha. Ehi, ma esce un bel forte. Quello era quello che era modificato. Cioè, piace più forte del coso del cosa, non voglio fare nome, ma mi ricordo bene o male chi ce l'avesse. Esce più forte del 747, esce, ma molto più forte. No, 120 watt esattamente, mica me lo ricordo io. Ricordo tutto a tu. Ma dici che chi ha già voce però? Vabbè, è un birra. E funziona bene, per quello che lo sto tenendo, perché funziona veramente bene. Vabbè, certamente che sì. Ma calma, io sono una... è una bomba, funziona, che è una meraviglia, funziona. Infatti non lo do a nessuno perché va alla grande. Ehi, ma è troppo ingombrante, invece 747 piccolino, dà più o meno gli stessi watt. Ed è piccolino e non devi stare semplicemente valvole, dice di dazzo, invece per lui bisogna cambiare la valvola quando si consuma. Ma già intendi, l'ho lasciato anche un po' di tempo fermo, non l'ha fatto nulla. Quella le valvole, che valvole c'ha, lo sai? Non lo so se gli ha messo quella americana. Hola. So solo che l'amperometro non sbaglia, quello de... non quello suo, no, quello dello strumento, quello buono. Il wattmetro ce l'hai? Sì, c'ha tutto, c'ha. No, a parte, tu ce l'hai un wattmetro per misurare con quanti watt esce? Sì, lo azioni e misura con quanti watt esce. Quello che c'ho io, rosmetro, quello non sbaglia nulla. Guarda, vedi, 120 le dovrebbe dare. Che ridarti, già. Con la 48 anche di... con la 48 li dà abbondante. Era stato messo una valvola più grossa, mi pare. Sì, ma è una bomba, non lo darei mai. Sì. Allora mio che è un altro zetto. ma questi, secondo me la valvola è più fedele. Chi è che vuole entrare? Avanti. Avanti, Dani, che va per il bambino un attimo. Io? A me sta dicendo. Ecco, non è da qua sicuramente. Ora. Che bella. Adesso sta uscendo meglio, Dani, la radio anche più forte. Quanti watt c'hai con quello lì? Però qua mi sta dando picchi negativi, da 9 scende a 7. Adesso si fissa a 7. Fissa a 7. Capo, prova. 6 e mezzo. Ma va bene, ti ascolto bene. Guarda, stai Dani. Ha detto, sei entrato a lavoro. Allora. Non se ne hai altro. Non se ne trovo a lavoro, ho detto, casino. Ah, capito. Cosa gabba? Ehi, eccomi qua, sono ritornato, kappa. Sette arrivi, 7 e mezzo, dai. Già va bene. Ma la radio è buona, tu? È buona, sì, sto usando un buon apparecchio, sto usando. Fai passaggio, scusa. Sette e mezzo, sì, dai. Sì, è così, già andava bene. Certo, se ci avrei avuto la bumera nella finestra, sicuro che non ti avrei sentito. Io c'ho la cosa, quella che hai tu, c'ho. L'avevi presa nuova, mi ricordo io. Anche io ho presa nuova, la mia è Sirio, però, mi ricordo che ce l'avevi. Scappa. E io c'ho quella precisa, la tua. Diciamo che la fa solo la Sirio, però è precisa l'antenna. Me lo ricordo, l'hai tenuta poco. Più là, quando c'hai i soldi ti prendi la Grazioli. L'ha mai vista la Grazioli? Ma lei è per di là da poi ne trovi nessuno. Vabbè, pure ha ragione. Daniela, hai visto la Grazioli com'è fatta? C'è la Grazioli, c'è la su... quella che c'è già nella Superlem, io se ci fosse. Ehi, ok, fai. Avanti già. Avanti, me ne sto andando anche io, vi saluto, vai. Sono a portare il cane, stiamo aspettando che mi passi proprio il microfono per salutarvi, dai. Che c'è Tasio che mi sta guardando come ti aiuto, ti muovi. Ah, non riprendi dalla macchina? No, se sono col cane, sto andando col cane giù io. Ah, va bene. E un giorno che non c'è il bambino, già te lo dico. Va bene, ciao. bassa, un po' più bassa, accelera i motori. 5, sì, lo sai. Poco a poco, ma chi è sempre quello là? Ma è quello che ce l'avevo io. Guarda, guarda che anche quello lì era il mio. Se apri la cosa invece ti do rapido dentro. Ti sicuramente che era il mio. Ehi, come ti arrivo bene in quell'apparecchio io? Apri domani a cazzofa. I tedeschi, ga. Non ho capito. E va bene, sì. Che te ne ha QRM, però. Noi due, boh. Sì, agenti già venti, vera, inteso, vai. Boh, gente di cuore, adesso. Cappa, scommetti che se vai... Come si dice? Se vai in FM col K si sente un bel forte. Non riesci a parlarci. No, con me. Ehi, io vado con questo e tu vai col K. Sì che lo devi abbassare in potenza a me.